quale indosserai. Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera, benvenuti a tutti su Sfumature in Onda. Come in ogni puntata vi terremo compagnia dalle 9 alle 10 con Silvia e Cecilia. Io sono Leonetta. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Buonasera, buonasera a tutti. Vi ricordiamo, siamo sui colori dell'anima e noi siamo le Sfumature in Onda. Sì, oggi 20 dicembre, sono le 21 e vi volevo iniziare la puntata annunciandovi una novità molto interessante, che è finalmente la creazione della nostra pagina Facebook. Ci trovate su Facebook le Sfumature in Onda, mettete un like per seguire le nostre attività e arricchiremo la pagina mano a mano nel corso delle settimane, informandovi sugli ospiti. Le puntate passate verranno pubblicate come sul blog dei Colori dell'Anima, quindi se vorrete riascoltare le puntate avrete la possibilità di farlo. Ma Cecilia promette di farlo al più presto, è il mio compito per le vacanze di Natale, nonché buon proposito per il 2017, prima che insomma Rosanna mi mandi l'ennesimo gentile reminder, e approfittiamo per salutare Rosanna e tutte le altre equipe che si alternano qui ai Colori dell'Anima. A proposito di equipe, Cecilia, mi dicevi che siamo alla ricerca. Siamo alla ricerca perché attualmente, come sapete, i lunedì del mese sono 4. Se non 5, però diciamo che sono nella maggior parte dei casi comunque 4. E attualmente i Colori dell'Anima ha 3 equipe che si alternano insomma il lunedì sera a intrattenere insomma qui su Radio Alma, e quindi se per caso qualcuno è interessato a fare questa esperienza divertentissima, tra l'altro sì, molto divertente, che a noi sta piacendo moltissimo fare tutte e tre insieme, siete invitati a contattarci sulla nostra pagina. Noi abbiamo creato appunto questa pagina Facebook Sfumature in Onda, quindi non esitate a scriverci e a contattarci e vi daremo tutte le informazioni necessarie per... Sì, vi metteremo in contatto con le persone giuste. Esatto. E insomma, direi che per cominciare... Vogliamo iniziare con un primo momento musicale? Ma sì, iniziamo con un momento musicale che ci dà così il gusto di quello che arriverà dopo. Sarà una puntata frizzante, la definirei. Beh sì, e gustosa. Gustosa soprattutto. E allora ci ascoltiamo Giorgio Gaber con Barbera e Champagne. Oggi di che colore sei? O meglio, quale indosserai? Scopriremo insieme su i colori dell'anima. E eccoci di nuovo ritrovati ai Colori dell'Anima con Silvia, Leonetta e Cecilia, le Sfumature in Onda. Dopo questa canzone che ci ha dato energia, ci ha messo nello spirito giusto, vi vogliamo presentare l'ospite di stasera. E ve lo presento, si chiama Massimo e buonasera, benvenuto. Grazie di aver accolto il nostro invito, e ci parlerà oggi di una realtà che conosciamo poco ma che ci interessa moltissimo e che si attorno a un argomento ben caro agli italiani e non solo. Assolutamente. E, Massimo, ti lascio introdurti. Ah, vado a braccio. Vai, che bello invito. No, innanzitutto grazie mille per avermi invitato. Siete molto carine, brave. E la prima volta che vado in radio, quindi i radioascoltatori mi perdoneranno se sono un po' claudicante qualche evento, ma farò del mio meglio. Innanzitutto, grazie mille, perché è una cosa molto carina questa. Però parlando voi di queste trasmissioni che fate lunedì su argomenti vari. Io sono qua e per gentilissimo invito per parlarvi un po' di vino, o quantomeno di come io vedo il vino, perché sono uno dei vari italiani venuti un bel po' di tempo fa, ormai sono una quindicina d'anni, che a lavorare nelle istituzioni, eccetera, eccetera, questo lasciamo da parte, è meno interessante, ma portando con me da Roma una cosa, tra le altre, insomma, questa passione per il vino. Sì, infatti noi siamo venuti a scoprire che c'è una realtà che si occupa di vino a Bruxelles, ma che è una realtà italiana. Assolutamente, sì, infatti siamo una piccola realtà, tutto sommato non piccolissima, e praticamente per poche parole è un gruppo di persone che ha fatto un'associazione, una ASBL, e ormai sono 5 o 6 anni, e quindi di appassionati di vino organizziamo attività legate al vino. Quindi siamo tutte persone che lavorano, fanno altre cose, o quasi tutti, però facendo degustazioni, serate con amici, bisbocce varie, piano piano frequentando corsi, tra cui un corso organizzato all'epoca, per molti anni dall'AIS, poi adesso con noi la FIS, un'altra organizzazione importante in Italia, e abbiamo fatto questo corso per sommelier. E a questo punto, finito il corso, ci siamo detti: perché non continuare a farlo noi? Perché il signore che lo organizzava, il signor Paolo Basili, è tornato a Roma, e la cosa è iniziata un po' così, un po' per scherzo, un po' come curiosità. Come si chiama questa ASBL? Perché ancora non ce l'hai creato. Io volevo creare la suspense, si chiama Sommelitaly-Brussels Wine Society, un po' ambizioso come titolo, però ci è venuto in mente una sera, c'avevamo il nome Sommelita, insomma riuniva chiaramente la parola, certo, per ovvi motivi, e Brussels Wine Society, così per dargli un tono internazionale. Che in questa città serve sempre. Che serve sempre, senti, saresti un po' troppo... No, scherzo, non è vero. Poi siamo nel paese della patria della birra, e quindi secondo me è particolarmente importante che invece i paesi che hanno forse anche di più la cultura del vino si facciano sentire, creino... Io per caso ho scoperto dell'esistenza di Sommelitaly ed ero convinta che fosse un corso belga, cioè, tant'è che mi chiedevo in come che modo un belga potesse no, mi chiedevo no, non come un belga, però non, ero sorpresa del fatto che fosse un'iniziativa appunto belga, e poi infatti ho scoperto che invece era italiana, e quindi ho tirato un sospiro, ho detto che bello l'orgoglio. E questo ci fa anche pensare che ci sia un grande interesse da parte degli italiani a Bruxelles di... Voglio dire, se esiste un'associazione italiana che si occupa di vino, mi fa pensare che c'è un riscontro. Ma guarda, hai voglia, ce n'è un sacco, nel senso che detto, poi ognuno si approccia al vino come vuole, ma noi quando abbiamo iniziato, cioè quando venivo a Bruxelles, mi scocciava un sacco, senza essere tutte, nemmeno lo sono ora, un esperto, però insomma, dopo un bevi qualche bottiglia di vino inizia a fare un po' di scelta, di trovare nei ristoranti, al supermercato, delle cose, a parte qualche rara eccezione, delle bolla bottiglione, del Sassicaia, queste cose famose, vini di scarsa qualità. Mi scocciava un sacco, venendo dall'Italia, era proprio un affronto. Ogni volta questo senso, come di sudditanza, fra virgolette, rispetto ai francesi, queste solite cose. Allora con gli amici ho detto, ma perché, scusa? Ed era proprio il periodo, 5-6 settimane fa, in cui è iniziato questo florileggio di persone che in maniera varia, o associate a delle enoteche già esistenti, o creando le loro, dei wine bar, soprattutto italiani, si è cercato di sfondere, diciamo, il verbo, fra virgolette, cioè, modestamente. Allora, iniziamo lo scopo di Sommelitaly, diciamo, lo scopo principale è diffondere la cultura del vino, virgola, italiano e non. Ok. E quindi organizzate, oltre ai corsi, organizzate degli eventi, degli incontri, o siete focalizzati più sulla formazione? No, guarda, facciamo due o tre cose iniziali. Facciamo il corso sul vino, questo sommelier, questo più lungo, eccetera, che dura un anno, e poi facciamo delle degustazioni mensili. Uh-huh. Organizzata sempre da noi, quindi che ti posso dire, un vini alcuni Barolo, piuttosto che il Vilaglianico, piuttosto che i vini, il Verdicchio, eccetera, eccetera, ma anche i vini stranieri. E poi facciamo anche delle cose molto carine che in realtà sono collegate alla cultura gastronomica, facciamo i corsi sui formaggi. Uh-huh. Abbiamo appena fatto, molto bello, divertente, fichissimo. Buono, per essere elegante. Buono soprattutto, buono, a chi piace. Veramente e poi sempre abbiamo fatto il corso sull'olio. Uh-huh. Sono un po' più brevi questi 4-5 incontri, molto divertente. Quindi là devono venire proprio dei professionisti che da tanti anni fanno queste cose, perché sono specifiche, e la gente si diverte un sacco. E lo fate, la parte non legata direttamente di degustazione di vini, viene sempre accompagnata, per esempio la parte sui formaggi, anche con i vini da abbinare? Sempre, nel senso che si fa anche molto, cioè l'approccio è leggermente, non dico serio, però direi sul serioso, nel senso non è che uno arriva, parla un po' di formaggio, ci sono delle slide, si cerca di farlo in maniera divertente, e poi la persona che fa il docente di turno, che sia il vino, il formaggio, di solito inizia a far degustare vicino il formaggio con un vino, Ed è, ripeto, già dopo il secondo bicchiere tutti che parlano, c'è un casino, insomma, cerchiamo di tenere la gente sotto controllo. Però è bello perché ognuno, perché poi in realtà vengono anche un sacco di stranieri. I corsi sono in italiano o anche in inglese? O in francese? I corsi sono, principalmente quello dei sommelier sono in italiano. Le degustazioni si fanno o in francese o in inglese. Cerchiamo il più possibile di aprirci. Io che sono una praticona, vorrei sapere, qualche ascoltatore sicuramente sarà interessato, dove trova le informazioni? Avete un sito? Sì, abbiamo il sito, si chiama sommelitaly.com. Ed è, c'è solo lui, ed è un sito, non ci si aspetti cose fantasmagoriche, è piuttosto semplice, però c'è tutta l'informazione che serve. Diffonde le informazioni necessarie. Sì, quello, se parliamo della comunicazione siamo veramente abbastanza indietro, prima si parlava di Twitter, Facebook, siamo un po' nei fantasci, no, semplicemente siamo tutte persone che fa altro. Vabbè, che lo fate per passione, quindi comunque la comunicazione richiede tempo. Se c'è qualcuno che ci ascolta è interessato anche sulla comunicazione, veramente gli facciamo un monumento, perché ci abbiamo provato, per ora siamo stati un po' il minimo indispensabile, infatti si basa molto sul passaparola, qualcuno anche va sul sito. Okay. Senti Massimo, ma io ho una domanda, per esempio i corsi di degustazione che fate, io sono totalmente ignorante, nel senso, per me, come magari qualche altro ascoltatore, per me il vino è tipo buono, non buono, perché non capisco, quindi cioè una persona come me che è profondamente ignorante in materia di proprio di cultura vinicola può partecipare a una degustazione, fate anche... Cioè, è anche in qualche modo guidata, cioè nel senso come tipo di, anche per un principiante completo? Guarda, prima c'è un esame severissimo, per esempio. Ah, sì? Terribile, pene Cecilia, a te non ti sbaglia pene corporali. Ok, io mi sono, adesso c'è tipo ci sarà la mia foto su dovunque faranno le... Io non posso entrare. Cecilia fuori. Cecilia non può entrare perché ha appena ammesso di essere ignorante. No, non mi dico, vorrei dare l'impressione che siamo, ho detto serioso fino a un certo punto, nel senso, però... Assolutamente sì, cioè il discorso è divulgativo, poi c'è, secondo il tipo di attività, delle volte c'è di un approfondimento, ma assolutamente la base è che anche uno che non beve normalmente viene e deve capire, certo. Se iniziamo a discettare, certo. Allora diventa un po', come dire, ci parliamo fra di noi, diventa un po' esagerato. Ma il corso si struttura, hai detto prima, in un periodo molto più lungo, è un anno, 14 mesi, avevi detto più o meno, e si struttura su una volta a settimana, una volta al mese? Si fa una domenica tutto il giorno, cioè dalle 10 alle 5, una domenica tipo ogni 3 di media. Poi togli le vacanze, i periodi in cui tutti siamo fuori, che sappiamo le festività, eccetera. E quindi sì, una media, e quindi praticamente sono 15 lezioni spalmate su circa un anno. Quindi l'idea è questa, perché è un po' faticoso, fra virgolette, se tu ti devi impegnare la domenica, certo, a stare, certo. Però almeno sei libero tutto il resto della settimana e puoi fare altre cose, insomma. Io guardo la regia per sapere se ho ancora il tempo di un'altra domanda prima. Vai. Volevo un curiosa, po' la ma che non sei altro. La regia, tra l'altro, la regia mi è assolutamente democratica, quindi la regia mi autorizza. Assolutamente. Volevo lasciare un attimo Sommelitaly da parte per farti una domanda che è una curiosità, volevo sapere in te come era nato l'interesse per il vino? C'è una cosa che ti accompagna da sempre o è venuta? Guarda, è venuta, volevo dire, spontanea, cioè ho iniziato, appunto, ci ripeto, andavo a Roma, come poi molti, andavo in una casa di parenti nelle Marche, a Matelica, là c'è il Verdicchio. Ed era l'epoca, quindi andavo e riportavo indietro questo Verdicchio, ancora 2000 euro al litro, quindi un euro al litro, ed era buono però. E tornavo così, poi veniva l'amico, magari al periodo anche, o era single, già appena sposato, molto tempo libero senza figli, quindi si faceva un sacco di cose, e allora non dico ogni sera, ma insomma amici che venivano, ci si scambiava queste bottiglie varie. Poi le prime degustazioni, iniziava a decollare anche questa cosa, a volte pure un po' esagerata, di ipertrendi del vino, corsi di vino, però là ancora era piuttosto accettabile e carina, e poi è venuta spontaneamente. Mm-hmm. Una delle cose che finalmente non ho mai programmato, perché si programma tutto a Bruxelles, anche da andare a Barbiera, almeno questa è venuta, è un fiore che è spucciato così. No, sì, mi chiedevo se magari era una passione in famiglia oppure... La famiglia così. Si beveva solo Fontana Candida. Okay. Che, vabbè, se non sei del Lazio non conosci, perché ho esperienza con l'acqua delle volte, quindi no, non ho avuto questo. Va bene. Va bene, a questo punto direi che possiamo farci un secondo momento musicale e ci ascoltiamo The Corsen Bono Summer Wine. Scusate, mi sono impappinata con l'inglese in maniera clamorosa. Strawberry. Oggi di che colore sei? O meglio, quale indosserai? Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Bentornati a tutti sui colori dell'anima, dopo questo ottimo stacco musicale. Siamo qui con Massimo Serpieri di Sommel Italy, che ci sta raccontando la realtà del lavoro, delle attività del sommelier e della passione per il vino. Stavamo parlando prima appunto del come ti sei avvicinato al mondo del vino. Io venendo dal nord-est, per me il mondo del vino è una cosa, il sommelier è una cosa molto differente rispetto a quello che c'è da noi. Appunto il sommelier è una professione ed è un'attività nella quale si scopre proprio il valore del vino in quanto prodotto. Sì. Sarebbe interessante se ci spiegassi un po' meglio in che cosa consiste anche il lavoro e come ci si forma verso questa professione, passione, dipende come la vuoi vedere. Sì, guarda, noi, il nostro corso in effetti è un corso per sommelier, cioè la base, tu all'esito, dalla fine del corso, segui le lezioni, poi ci sono degli esami, insomma ci si impegna un po', sei sostanzialmente pronto, anche se poi comunque non si ferma mai, per fare varie cose in realtà. Il termine sommelier è un po' riduttivo, nel senso che sommelier tipicamente è quello che sta in un ristorante ed è in grado, quando la gente va a mangiare un wine bar, in qualsiasi posto in cui serve vino, di capire abbastanza rapidamente, anche a seconda di quello che la persona mangia, che cosa gli potrebbe andare bene per quella persona, per quel cliente, per quel piatto, eccetera. Quindi chi ha una certa dimestichezza, e questo vuol dire che tu a monte devi chiaramente conoscere come si fa il vino, quali tipi di vitigni ci sono, soprattutto, questa è una cosa molto divertente del corso, c'è tutta una parte, siamo a terzo livello, dividendo in tre parti, è l'abbinamento cibo-vino. Cioè si vanno proprio è fondamentale, perché è anche culturale, quindi se tu vai in un altro paese adotteranno criteri in parte diversi, ma in realtà ci sono anche delle basi molto molto relativamente solide. E allora la persona che fa il sommelier fa questo, diciamo così. E noi personalmente, quando facciamo un corso su 30 persone di sommelier professionali che poi vanno a fare questo, che già lo fanno e vogliono appunto migliorarsi, ce ne saranno pochi, sono 3-4, però ci sono tante persone, alcuni che lo fanno per passione come io, lavorando in altri settori, però puoi fare un sacco di altre cose. Io facendo questi corsi, anche frequentando un po' ambiente, eccetera, di fiere di produttori, eccetera, vedi che tu puoi fare ormai, ad esempio, puoi fare l'importatore di vini, chiaramente questo è abbastanza da sé, puoi fare il consulente per grandi gruppi, catene alberghiere o posti, diciamo, lusso o non lusso, comunque che tendono a dare a un cliente importanza a valorizzare il vino. E puoi fare, se tu sei un cuoco di professione o per passione, oppure nel tuo tempo libero, oppure lo fai due sere a settimana, sempre di più vengono, perché ovviamente nel momento in cui fai il cuoco sei anche in grado, conoscendo i vini, proprio di cucinare meglio e poi insomma di fare a tua volta gli abbinamenti. E in realtà io adesso faccio anche altri corsi di altro genere, ma togli un coperchio da una realtà enorme. Cioè il vino è il vino come lo facciamo noi, cioè per passione, in maniera seria, però magari andando a scovare le bottiglie più interessanti, soprattutto noi come italiani, abbiamo una diversità, il nostro valore aggiunto. Però ci sono dei sistemi produttivi, cioè tu sei anche un ragazzo che vuoi fare degli studi, però poi non vuoi cimentarti in altre cose, poi hai varie scelte nel mondo del vino, puoi fare o fai continui gli studi, fai l'enologo ad esempio, mm-hmm. quindi è una carriera, diciamo, è un tipo di profilo, oppure ti metti a fare, che ne so, un business però applicato a tutto questo mondo, diciamo il marketing del vino, ormai sta dappertutto. Certo. Io infatti è un giovane che non abbia una vocazione particolare, sì. Giovane, non esiterei a consigliarvi di entrare in questo mondo, perché c'è tanto da fare. Senti, io che sono una che si interessa sempre molto alla sfera emotiva, sono stata molto colpita da quello che hai detto del sommelier che deve, che sceglie il vino in base anche al cliente. Mi incuriosisce questa parte, mi piacerebbe che ci dicessi qualcosa di più su questo. Sì, perché guarda, delle volte mi ricordo ancora, è venuto a fare il corso l'anno scorso un ragazzo molto simpatico, è una persona carina, insomma, di base faceva il, fa il, in un ristorante nel vicino ad Anversa, non so dove, il cuoco e anche il sommelier, perché è un posto piccolo, insomma, fa un po' di tutto, e a dei signori che erano venuti a prendere il pesce, lui gli ha servito un Barolo, perché adesso no, poi, non si lui, può, cioè, fino a chi non beve tutti i giorni si rende conto, insomma, che mettere su un pesce delicato magari così, il Barolo lo ammazzi, perché il Barolo è un vino tipicamente piuttosto pesante, anche se squisito, e che è un caso tipico, ce l'abbiamo preso in giro, però lui quando ha fatto il corso forse gli abbiamo dato qualche idea per dire queste cose, in questo senso, cioè, se arriva un cliente che si presenta e ti dice mi dà una bottiglia di vino, allora tu sai che tendenzialmente non è che ha, almeno come punto di partenza, o ti sta provocando, o ti sta scoprendo, quindi devi anche capire questo, non ha particolari pretese, cioè magari vuole un vino che vada bene, ma non ha, non ci vuole, certo, impegnare la serata, e c'è quello invece che arriva, rompiscatole, tipo me, mi dice nella carta di vini cosa c'è, mi dicono un Borgogna, che anno è? E allora quello poveraccio deve andare in cucina e dire di questo ha chiesto l'anno. Senta, ma posso farle una domanda? La seconda cosa, dice sì, è invecchiato, invecchiato in legno o in acciaio? E là vedi che inizia la fronte perlata, così il cliente rompiscale, così, però lo devi, il sommelier è vero, in effetti è quello che è in grado di in qualche modo calarsi, perché alla fine il cliente che fa? Vuole avere un posto del genere, cioè il sommelier vuole avere una sensazione, un'emozione, certo. Beh, certo, la fidanzata, l'amico o la serata, semplicemente vuole avere un qualcosa di diverso, altrimenti vai, ti compri la birra o comunque il vino normale te lo bevi a casa, sì. E quindi cerchi di instillare nelle persone, anche a te stesso, insomma, agli amici o a chi frequenta, questi tips, queste idee per dire guarda che se tu fai ad esempio un piatto che ti posso dire particolarmente strutturato, cioè una lasagna, un qualcosa, al cliente non gli consigliare un vinello leggero leggero, perché non si non sentirà sente il vino, neanche, esatto, oppure ho fatto l'esempio prima del vino con il pesce col Barolo e quant'altro, cioè cercare di capire un po', intercettare la persona per farle un piacere, in sostanza, certo, quindi c'è comunque ci vuole una capacità di ascolto e di osservazione, direi anche, secondo me sì. Guarda, io sono andato qualche mese fa a un ristorante 2 stelle, la prima volta in vita mia andavo a un ristorante di Anversa, molto bello, insomma, su un palazzo che sta su tutta l'entrata del porto, bellissimo. E là però c'era il sommelier, però ce n'erano due, veniva uno ed era rigidissimo e tu dicevi e lui serviva, cioè, vedevi che eseguiva una certa, sì, con mano, un certo, diciamo, protocollo, però completamente distanziato, cioè io dico apprezzavo la professionalità ma niente di più. È venuto un altro più giovane, più che anche che fa la battuta carina, sì, e allora tu gli fai, a questo punto sei come appassionato, ti fa piacere perché un ristorante del genere ha delle grandi bottiglie, e anche perché molto spesso i ristoranti del genere il vino fa la differenza, brava, esattamente. L'altro magari non era in grado, quando io chiedevo una cosa risponde la domanda, risponde, sì, però non mi dava questo tipo, sì, di piacere, sì, aveva lo, capito, schema predefinito, esatto, senza andare un po' oltre, esatto, quindi c'è anche un pochino di psicologia, ci sta, di savoir-faire, insomma. Beh, certo. E nella formazione anche che tu hai, comunque ci hai detto che la sviluppi sempre di più, ma uscite anche dall'Europa con i vini o rimanete nell'ambito europeo, data già la grande diversità che abbiamo all'interno del continente? No, assolutamente, beviamo anche vari vini, ad esempio il corso in sé ha due o tre lezioni sul 6-7 che si fanno sulle regioni vitivinicole, assolutamente dedicate all'estero, diciamo Europa e non anche non Europa. Io in particolare, con me poi prendi qualcuno che è abbastanza aperto, molto orientato ai vini stranieri, perché frequentando anche altri, mi piace anche altri contesti, cioè ad esempio sono dei corsi fatti dagli inglesi che sul vino sono molto bravi, non hanno il vino, adesso ce l'hanno anche, però insomma sono tra i più bravi al mondo a organizzare una cultura del vino, perché sono molto obiettivi, cioè loro non hanno, né italiani né francesi abbiamo un po' dovunque andiamo, però non è buono come quello mio, il francese al massimo grado, anche noi non scherziamo, invece l'inglese si approccia al vino della Nuova Zelanda come fa con quello italiano, riconosce chiaramente che non è l'Italia, Nuova Zelanda, però dice, però in quello neozelandese ci sono dei vini buoni, infatti sono dei vini fantastici. Sono andato l'altro anno in California, ho fatto questo bel viaggio che tanti anni volevo fare e ho visitato dei produttori meravigliosi. Dei vini che in clima, cosiddetto blind, cioè senza sapere l'etichetta, qualsiasi appassionato avrebbe avuto difficoltà a dire no, no, questo è un vino del nuovo mondo, quindi con senso di superiorità. Ci sono ormai, il vino è, ci sono produttori in tutto il mondo bravissimi. Se a me va colpito molto quando sono stata in Georgia, la produzione vinicola che hanno lì, il vino, io non sono un'appassionata di rossi, però il loro rosso devo dire che non è così pesante come lo trovo spesso specialmente in Italia, però anche questo modo di fare il vino dentro la terra, che è un sistema millenario praticamente. Sì, questo loro usano la famosa anfora, che poi in Italia alcuni fanno, e loro, diciamo, sui vini fatti è una cosa giusta, secondo me almeno, sui vini rossi viene particolarmente bene, sui bianchi questo modo di fare l'anfora, anche a contatto con l'aria, in realtà li ossida delle volte, quindi hanno un sapore piuttosto particolare, un po' forte, mentre sui rossi, che avendo una struttura maggiore si proteggono un po' di più, secondo me viene un mélange, viene un risultato che più spesso è piacevole. Però vabbè, si considera un po' il paese, la Georgia, un po' la culla del vino, quantomeno occidentale, si dice che là sia. La regia ha una domanda, ma siccome insomma comunque il vino sappiamo che insomma lo si fa da che l'uomo praticamente è su questa terra da tantissimi, comunque sono tantissimi anni che si fa il vino, quanto racconta il vino dell'emigrazione, di come i popoli si sono spostati? Nel senso, un vino che può essere dal sudafricano a californiano a neozelandese racconta qualcosa magari dei movimenti che ci sono stati, di popolazioni che si sono mosse o vitigni che si sono spostati? A voglia, no, sono stati, no, a voglia, certo, mi piace questa cosa. Hai voglia, no, perché hai detto una cosa proprio al massimo grado, cioè abbiamo citato la Georgia e la notte dei tempi, ma infatti il vino, cioè le migrazioni, in certo senso che la civiltà, no, sia venuta dalla Mesopotamia e poi tutto il Medio Oriente e poi la Grecia e poi i Romani, esattamente la storia del vino, proprio la potessi studiare in un certo senso la storia della civiltà, civilizzazione attraverso il vino, che sono appunto, dicevo, la Georgia, poi si è spostato verso ovest e alla fine sono stati i Romani, come in altre cose modestamente, che hanno portato il vino in Europa, i Romani che hanno fatto loro il vino francese. Prima è iniziato con Marsiglia, poi tutto il resto in Borgogna, sono stati i Romani, loro che hanno massificato in un certo senso la vite, dovunque andava la guarnigione romana metteva la vigna. Poi, come hai detto tu, ma anche nelle realtà più vicine, in California, per citare uno, cioè c'hanno un sacco di vino, perché hanno avuto, sappiamo, gli Stati Uniti, l'immigrazione dappertutto, e tu trovi appunto nella Napa Valley, in quella zona della California, che è il tuo stato più importante per la produzione del vino negli Stati Uniti, il Barbera, trovi il Nebbiolo, trovi un sacco di vitigni che sono in Europa, perché chiunque, quelli, diciamo, gli stranieri, gli immigrati che venivano, ovviamente, oltre alla propria cultura, eccetera, portavano il tipo di vino, di vite che, e di vini che amavano. Quindi vini senza frontiere. Assolutamente. Vini senza frontiere. Assolutamente. E questa è una cosa bellissima, perché poi c'è una contaminazione di culture e poi di cloni. E quindi tant'è vero che fino a 2-3 anni fa c'era grande confusione sui vitigni, perché poi in questo mondo, sia per motivi commerciali sia per motivi sciovinismo, c'è una competizione enorme, no? Tutti dicono, che ti posso dire, lo Zinfandel, che è un vitigno che sta in California, molto famoso là, deriva dal primitivo, cioè non siamo i bravi noi, e invece il primitivo a sua volta deriva da un vitigno che è croato, eccetera eccetera, ma una... Non dire le croate che poi... No, ingalluzziscono come sempre. Ormai l'hanno saputo, quindi. Ma ad esempio, su questo fatto è importante che la grande giornalista Jensen Robinson ha fatto un libro, si chiama Grapes, con tutti i DNA di tutti i vitigni del mondo, una cosa mostruosa. Però ha fatto chiarezza su tutte quante le progenie, eccetera. E quante cose stiamo scoprendo questa sera che non, che assolutamente non di cui non si sospettavamo. Se venite alle nostre dirette scoprite queste altre. Ma guarda, la degustazione, pubblicità, alla degustazione sicuro. Ci siamo già prenotate. Oh. Ci siamo. Poi, insomma, noi siamo sempre aperte, quindi assolutamente, perché ci stai veramente facendo venire voglia. So da alcuni amici che mi dicono no, andiamo a fare il corso, che stanno scrivendo, insomma, che apprezzano chi è già andato sulla pagina di Sommel Italy, che fa, insomma, che dice che è molto carina, quindi insomma. Ah, bene, fa piacere, vedi, pensavo fosse un po' troppo austera, invece funziona. Vabbè, ma perché andate alla sostanza voi? Cosa? Andate alla sostanza. Sì, però qualche infioritatura ogni tanto ci starebbe bene. Okay. E a questo punto, scusatemi, mi ero distratta io dal microfono e farei un break musicale. Questa volta passiamo Jeff Buckley con Lila Quine. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Eccoci ritrovati qui con Massimo di Sommel Italy, che ci ha portato in un viaggio molto molto interessante a parlare del vino. Io volevo però, ecco, insomma, riportare l'attenzione sulla terra con una domanda super banale, ma insomma supero la vergogna e te la faccio. Perché io sono molto ignorante, come ti dicevo prima della puntata, non me ne intendo. Domande più difficili di solito, senza già tremare. Ma siccome, ecco, Natale si avvicina, io volevo sapere se ci potevi dare qualche indicazione, qualche trucchetto, qualche consiglio su come non sbagliare a tavola. Cioè, io per esempio ho sentito questa regola che, insomma, è buona norma abbinare un prodotto di un certo territorio a un vino di un certo territorio. Ecco, questa è l'unica cosa che so, ma prima di tutto volevo chiederti se condividi, se è un'informazione corretta, e poi se ci puoi dare qualche suggerimento per non sbagliare, insomma, non commettere errori e orrori. Orrori. Intanto quando inviteremo Massimo a cena, il vino lo porterà lui. Esatto. Così siamo sicuri di non sbagliare. Sempre. La gente si stressa, ma io fossi. No, guarda, secondo me ci sono delle regole, non so, perché l'abbinamento regionale di solito è un classico che spesso funziona, in effetti. Nelle forme più strane, a volte, delle volte anche più semplici, se tu ti prendi un fritto alla romana con un vino dei Castelli, tutto sommato tendenzialmente va abbastanza bene, si dice, naturalmente. O la bistecca fiorentina con il Chianti. Ci sono anche dei motivi, in realtà. Se tu vai a scavare, senza fare chissà quale dottrina, però la famosa bistecca, si dice, ha una sua, dice quella che si chiama succulenza, un po' di succo, sì, no, della carne, chiaramente, e il vino toscano, il sangiovese, nelle forme del Chianti, eccetera, ha un tannino, quella cosa ruvida che, insomma, che dà un po' fastidio se bevuta solo delle volte, può essere un po' forte, che si mischia con questa succulenza, e le due cose insieme vanno bene, quindi funziona. Okay. Ad esempio, così. Quindi per la cena di Natale o comunque nel periodo delle vacanze, tu intendevi dire? No, io come regola di vita in generale, visto la mia condizione proprio di... No, ma non ti buttar giù, perché... No, speranza. Però siccome siamo in periodo natalizio, magari qualche chicca, insomma, possiamo provare a darlo, qualche suggerimento per la cena della vigilia, che credo notoriamente sia di magro, quindi almeno a casa mia è sempre sì, di magro. Sì, in effetti. Allora, e invece poi il cenone del 25, il pranzo del 25, che di solito ci dai sotto, invece, si dà sotto. Si recupera, come se si recupera, mangiasse, esatto, proprio il 24, vabbè. Tra l'altro, lasciamo bene. Tutte scuse. Ma guarda, è semplice, ci sono delle cose che tenderei a evitare proprio su queste con una certa sicurezza. Ad esempio, delle volte si porta uno champagne o uno spumante, secco, quindi, insomma, secco, e lo si beve con il panettone o pandoro o un dolce. Questa è una cosa, sente, che non ci sta. cioè non sta bene. Ecco, vedi. Questa è una cosa. Questo lo sfido chiunque qua a dire questo, no. Questo, per esempio, è il classico dibattito del 31 dicembre, no? Il panetto, no, il secco, chi dice il dolce? Vedi, adesso io con una certa autorità posso affermare. Ti do mandato per dice, chi te l'ha detto, Massimo? Quello, okay. Che, quello di Bruxelles, se stai in Italia. No, seriamente, non lo dico io soltanto, per carità. No, e tu su un dolce, questa è una regola abbastanza consolidata, regola, insomma, un'abitudine, poi ognuno beve quello che gli pare, per carità. Però è che sul dolce ci bevi un po' un vino dolce, mm-hmm. ci bevi un vino secco, le due cose non vanno bene, non sono buone. Mm-hmm. Allora, nel panettone, ma perché non ci prendiamo, ad esempio, un vino che è molto conosciuto all'estero e in Italia sempre di meno, in realtà se ne fa tanto, come l'Asti. Mm-hmm. Lo spumante Asti. Il Sekt in tedesco. Esatto, il Sekt tedesco, ma gli piacerebbe, è molto più buono l'Asti. È vero, no. Questo confermo, questo confermo, anche la mia ignoranza, carità, confermo. I tedeschi sono bravi tante cose, ma il Sekt, forse il 5% è buonissimo, vedete, è una schifezza. Loro in realtà prendono le uve da tutta, no, lo è una cosa, non hanno un disciplinare, noi abbiamo le uve che vengono da là, con un certo modo di fare il vino. Ad esempio, col panettone in Pandoro ci sta benissimo. È un vino dolce, non mm-hmm. è che vai l'uno perché dice io sono beato dei grandi vini, lo disprezzo, certo, non è un vinone, ma quello ci sta bene. Poi col magro è una regola antica che non è ferrea, però il fatto che chiaramente non, normalmente non ci su un piatto leggero, un piatto di pesce, se lo fai leggero il pesce, tendi a non metterci il vino rosso, sì, molto... ma soprattutto il vino rosso pieno, cioè il vinone che dice oh, stasera è la festa, allora ti porto appunto il Brunello di Montalcino. Certo. Non c'ha senso, ma per un motivo molto banale. Poi magari hai il merluzzo bollito, esatto, e dici... Esatto, bollito che, non, che scompare, cioè c'era una volta il merluzzo, senti solo il vino. Certo. Quello è il problema, perché l'idea è che tu valorizzi tutte e due, la regola base. Quindi là ci metterai tendenzialmente un vino bianco, ma non perché lo diceva mio nonno, perché effettivamente è l'unico modo per avere, sentire un po' il vino, un vino bianco delicato. Sì. Se poi invece ti prendi, ad esempio, una cosa particolare, se ti prendi un salmone affumicato... Sì, una cosa là, un po' più intensa. Là prenderai un bianco, grasso quindi, mm-hmm. che però c'è anche questo sapore affumicato. Là puoi anche provare a fare il famoso vino, sembra la parola, cioè vino barricato. Che uno sente ogni tanto di barricato, sai, quelli che vogliono far vedere. Beh. Conosco solo la grappa. Conosco solo la grappa. Che vuol dire che è stato invecchiato in una botte piccola e quindi ha assorbito mm-hmm. molto il legno. Ok. Diciamo, fa un po' figo. Molti, alcuni su un vino semplice fanno questa cosa perché è molto seducente come odore. Sì. Sapore. C'è la vaniglia, c'è questo legno. In realtà, se fatto bene, come nei vini della Borgogna, che mm-hmm. meritano la fama che hanno. E perché c'è un vino di struttura, c'è anche questa nota un po' fiume che richiama quella del salmone. Questo è un esempio okay. in cui puoi andare. Il giorno dopo che mangi di più, a quel punto se mangi la carne, ma in realtà sul pesce ti puoi anche, per ritornare un secondo al 24, ti puoi anche sbilanciare su un rosé delle sì. volte. Là ci puoi andare, non è? Perché? Perché il rosé c'ha pochi tannini, mm-hmm. c'ha poca struttura, quindi certe volte ci può andare. Sulla carne... tendenzialmente per quel discorso che facevamo prima sì. perché c'è la succulenza, perché c'è un piatto piuttosto importante, se ci metti un vino leggero, bianco, scompare lui. Certo, eh sì, bisogna trovare un equilibrio. Poi ci sono delle cose molto carine sui dolci al cioccolato ti bevi una bottiglia o di Porto mm-hmm. una bottiglia intera magari no un po' di Porto, poi il dolce va giù, oppure puoi andare sul tipo l'amarone o il recioto, questi tu che certo. da quelle parti che c'è questo gusto quasi cioccolatoso alla fine di proprio di un sì. fritto, scusate, trascendo, vado su note tecniche, però veramente uno fa le prove, la cosa divertente è provare poi, cioè la cosa con gli amici, delle volte uno anche scopre, cioè stasera certo. ho portato questo formaggio, ah un'altra cosa, un false friend, questo mi permetto pure, attenzione a non prendere il formaggio tipo il pecorino, Castelmagno, grandi formaggi con un vino rosso importante. Mm. Questa è una trappoletta che tu dici, ah, sul formaggio è vino rosso. In realtà no, perché se il formaggio è come è un formaggio molto invecchiato, sarà molto concentrato e molto sapido, salato quasi, sì. no? Giusto? Prendi un formaggio, sì, se un prendi pecorino, un pezzo di parmigiano, anche sì. banalmente un pecorino, e là allora normalmente si tende ad andare sui vini che si chiamano morbidi, cioè non hanno tutto questo tannino, ma addirittura ci siamo andati con i vini dolci. Mm-hmm. Eh sì, infatti, sì, come si mette, sì, insomma... Quando di solito quando il formaggio arriva giusto prima del dolce, anche forse per quello. Sì, anche, nel senso, la logica è che tu non sommi. Io me l'invento, esempio, ragazzi, sul... No, è vero. Cioè, sai, a livello cronologico, no, a parte gli scherzi. Cronologico, sì. Per esempio, il gorgonzola, oppure il roquefort, che sono mm-hmm. buonissimi. E roquefort, la morte sua, si dice il porto, ad esempio. Ok, questo per esempio mai provato. Provato, guarda. Proviamo, proveremo. Perché ne prendiate in quantità, siccome proveremo a Natale. Sì. Provate, fate una cosa magari anche diversa dal solito. Qualcuno prende il roquefort, oppure questi formaggi bleu, così. Mm-hmm. Dite, sì, no? Sì, sì. E là e ci mettete un vino del genere, molto carino, molto buono. Ma questo ce lo segniamo subito. Esatto. C'è cioè, il figurone di Natale, ta. Esatto, e diremo no, ce l'ha detto Massimo. E quindi... E quindi faremo, no, nessuno potrà contrastare questa nostra. Ma il tempo è tiranno, noi c'erano maledetto. Tantissime cose che avremmo voluto, che avremmo, tante cose che avremmo voluto dire in questa puntata, anche legate al territorio, alle particolarità del. Ma ti invitiamo, se vorrai tornare per un'altra grazie, puntata volentieri. Più sul territorio, proprio sulla scoperta un po' della varietà. Vinicola, sei benvenuto, assolutamente. Si usa il termine per un soggetto terroir. Non l'ho sentito, esatto. E noi abbiamo la consuetudine, come ti avevo anticipato, insomma, la trasmissione si chiama I colori dell'anima e quindi abbiamo la tradizione di chiedere ai nostri ospiti un colore da dare alla puntata, insomma, che si è appena conclusa, che si sta concludendo. E quindi a questo punto arriva la domanda di rito: che colori diamo a questa puntata? Ci ho pensato, ci stavo pensando, perché me ne avevi accennato, possiamo dire, che non è una sorpresa assoluta, però la prima cosa che ti ho risposto è che ho fatto una cosa senza programmazione, questa del vino, cioè mi è venuta per passione. Il colore della passione è il rosso. E quindi direi gli do sicuramente un bel rosso acceso, senza sfumature, rosso rosso. Ok, il rosso benissimo, come il maglione di Silvia. Il maglione di Silvia, sto dicendo anch'io. Okay. Il rosso si conferma un colore molto gettonato. Ah sì? Sì, però vuol dire avete gente è un gran bel colore. Esatto. È un gran bel colore. Però per questa non è la prima volta. Nelle sì. puntate precedenti nessuno... No, Emerge. Per il colore di Emergency. Per emergenza. Ok. E quindi niente, grazie. Grazie a voi. Grazie mille Massimo per essere venuto, per averci tenuto compagnia. Ti aspettiamo allora l'anno prossimo, nel 2017, quando vorrai tu, quando le agende lo permetteranno, per fare una puntata numero 2. Io ci sarò molto volentieri e vi aspettiamo, chi è incuriosito. Come no, da sommeritalia, sommeritalia.com. E rinnoviamo l'invito che se c'è qualcuno tra i nostri ascoltatori che è appassionato di comunicazione e che vi vuole dare una mano. E se no le informazioni su Sommelitali, abbiamo detto www.sommelitali.com. Esatto, là c'è tutto, c'è anche il mio, poi ovviamente il mio email. E chiaramente fatevi vivi, insomma, siamo volentieri. E bevete buon vino. Bevete buon vino. A questo punto concluderei augurando buon Natale a tutti, perché insomma buon Natale, buon anno, perché insomma siamo ormai vicinissimi. Auguri. Augurissimi a tutti e buona ultima settimana di lavoro per chi sta ancora, per chi sta facendo il rush finale negli ultimi giorni, ultimi giorni di lavoro. Grazie mille a tutti. E vi invitiamo poi a seguire la nostra pagina Facebook per sapere quando sarà la prossima puntata. Mandateci anche un feedback, sono più che benvenuti i feedback sulle puntate, gentile, argomenti che gentili, sì, gentile, esatto. Gentile. Abbiate pietà. Evitiamo i troll informatici. Comunque grazie mille a tutti per averci seguito. Vi aspettiamo l'anno prossimo, le date sono ancora da stabilire, ma non vi preoccupate, attraverso la pagina Facebook insomma ne verrete a conoscenza. Grazie mille. E con quale canzone ci lasciamo? Concludiamo con Verdi, La Traviata, e con Libiamo le lieti calici, perché ci sembrava la giusta conclusione anche festiva per questa puntata e per il clima festivo natalizio. Arrivederci a tutti. Ciao. Auguri. Ciao.